Incontri di Gianfranco Fabi. In blu di George Gershwin, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Rossella Sobrero. Buonasera. La Rhapsody in blu, un brano notissimo di qualche anno fa, però forse adesso un po' fuori moda. Come mai le è venuto in mente prima di dirci chi è Rossella Sobrero? Vi dirò chi è Rossella Sobrero, ma le chiediamo perché questo brano. Perché è un brano che fa venire brividi, secondo me, e perché mi ricorda dei momenti particolari che mi sono particolarmente cari. Quindi momenti particolari, personali, non entriamo troppo nel personale. No, non solo personali, ma anche lavorativi. Ho scelto questo brano quando ho lanciato Coinetica e abbiamo fatto la conferenza stampa di lancio di questa impresa che nasce 12 anni fa, e l'abbiamo fatta all'interno di una organizzazione no profit dove dei ragazzi disabili suonavano gli strumenti e hanno voluto suonare Rhapsody in blu. Ecco perché mi sento particolarmente vicino a questo brano. Ecco, allora abbiamo già detto, fondatrice di Coinetica, attualmente presidente, ha già anticipato un po' che cos'è Coinetica, però spieghiamolo bene, come nel dizionario possiamo trovare la definizione di Coinetica. La parola etica è alla base ovviamente della scelta di questa struttura che nasce 12 anni fa, il primo giorno di primavera, 21 marzo, ci tengo a dirlo perché credo molto così anche nei simboli e anche nei messaggi che ci arrivano dalla natura. Abbiamo scelto di creare appunto un'organizzazione che si occupasse di responsabilità sociale d'impresa e più in generale anche di comunicazione sociale. Quindi dopo 12 anni siamo ancora entusiasti di questi temi e pensiamo che ci sia grande sviluppo anche per il futuro. Ecco, un piccolo passo per guardare indietro, qual è stata la sua esperienza, da dove veniva, come mai è nata questa volontà di fare una nuova iniziativa in questo particolare settore? Io lavoravo già nel mondo della comunicazione, ho lavorato per anni con un personaggio del mondo della politica molto influente dove mi occupavo della comunicazione degli eventi culturali. È stata un'esperienza sicuramente diciamo formativa, anche se con qualche chiaroscuro. come sempre, come tutte le esperienze. Sì, diciamo di sì. E dopodiché per 15 anni ho diretto anche come socio un'agenzia specializzata in progetti di education, e la cosa più bella che mi piace ricordare è l'esperienza in Brasile, dove sono andata a fondare una sede a San Paolo e dove per 6 anni ho fatto la pendolare. Ah, pendolare con il Brasile, beh, una bella cosa in fondo, perché basta essere in estate in Europa e in inverno, cioè in Brasile quando è estate forse diventa anche piacevole. Per questo. No, l'esperienza brasiliana comunque è stata molto interessante perché mi ha permesso di capire una realtà diversa dalla nostra, e un conto è andarci, come sappiamo, da turisti, da viaggiatore, certo. Un conto è lavorarci per un po' di anni. Ecco, il Brasile è certamente una realtà che come luogo comune è visto solo come grandi spiagge, grandi mari, grandi divertimento, ma è una realtà economica soprattutto negli ultimi anni in grande effervescenza, con tanti problemi ovviamente. Sì, certo, però hanno un approccio al lavoro anche molto diverso dal nostro. E, comunque, rispetto ai primi anni in cui io ero in Brasile, quindi parliamo del 1994-95, poi il Brasile ha fatto grandi passi avanti. Adesso anche lui sta battendo un po', però in realtà è veramente, come giustamente si definiscono loro, non è un paese ma un continente. È un continente, certo, una grande realtà. Ecco, torniamo in Italia anche perché Rossella Sobrero, come ricordo, presidente di Coinetica, e qui anche perché tra pochi giorni si svolgerà il Salone della Responsabilità Sociale. Allora, di cui Coinetica è promotrice insieme ad altre organizzazioni. Che cos'è questo Salone della Responsabilità Sociale? È un evento, ci piace dire, più importante che c'è in Italia, che offre la possibilità alle organizzazioni, quindi imprese, profit, no profit, pubblica amministrazione, giovani, studenti, docenti, di confrontarsi sulla responsabilità sociale e sull'innovazione sociale. Ecco, si svolge a Milano, in Bocconi. Si svolge in Bocconi il 7 e l'8 di ottobre. È sono due giorni veramente ricchi di tante cose. Mi piace usare questo termine anche se è un po' improprio, perché ci sono momenti di aggiornamento e di formazione, oltre 70 tra tavole rotonde, workshop, seminari, eccetera, ma anche altre attività di animazione. Per esempio, ci siamo lanciati in una sfida che speriamo ci porti i risultati attesi, che è di creare una grande mappa mentale che misurerà alcuni metri quadri, dove tutti i visitatori, partendo dalla parola processi condivisi, che è il tema di quest'anno, potranno contribuire aggiungendo parole, riflessioni, creando proprio una grande mappa. Alla fine dei due giorni avremo come una situazione generale di che cos'è la mappa mentale dei processi collaborativi. Cioè dei responsabili all'interno delle imprese, dei responsabili di coloro che devono operare delle scelte, e quindi valutare quanta responsabilità sociale c'è nelle scelte di queste persone? Non abbiamo una tale presunzione, anche se ci piacerebbe. No, è contribuire alla costruzione di un pensiero condiviso su che cosa significa appunto i processi collaborativi, perché siamo partiti dall'idea che dopo 15 anni la responsabilità sociale d'impresa abbia anche portato una maggior collaborazione tra le organizzazioni. Un po' per motivi, come sappiamo, anche della crisi, ma anche proprio come spirito di non essere più competitivi, la competitività versus la collaborazione oramai è un discorso superato. Oggi si è competitivi proprio perché si è più collaborativi. Ecco, questo proprio mi sembra una prospettiva importante. In una situazione di crisi come questa si pensa che la responsabilità delle imprese sia soprattutto quello di mantenersi in vita, di riuscire a superare le difficoltà. C'è ancora spazio per una responsabilità sociale? Sì, sicuramente sì. Le imprese, chiaramente quelle che non devono fare i conti con grande ristrutturazione o con situazioni particolarmente difficili, le imprese oggi hanno una maggiore attenzione a questi temi, un po' per ragioni anche, diciamo, di vantaggio economico. Cioè, per esempio, se noi pensiamo ai processi produttivi rivisti in ottica di risparmio ambientale, vediamo che, per esempio, molte imprese stanno facendo questo percorso. Ecco, possiamo dire, magari lo approfondiamo nella seconda parte, che la responsabilità sociale è qualcosa che può aiutare anche le imprese a affrontare la crisi e il sistema nel suo complesso a rispondere meglio alle esigenze nuove che pone la crisi economica. Incontri. Ancora con le note della Rapsodia in Blu, riprendiamo il nostro incontro di questa sera con Rossella Sobrero, presidente di Coinetica. Abbiamo parlato nella prima parte dell'esperienza di questa società di comunicazione specializzata nell'ambito della responsabilità sociale dell'impresa. Abbiamo parlato di questo Salone della Responsabilità Sociale che si svolgerà nei prossimi giorni, 7-8 ottobre alla Bocconi di Milano, all'Università Bocconi. Ecco, perché l'Università Bocconi, Rossella Sobrero? Ma noi abbiamo fatto nelle primissime edizioni di questa manifestazione un po' un tour di vari atenei, dalla IULM alla Statale, poi ci siamo diciamo incontrati con Bocconi, dove peraltro questi temi sono da sempre al centro dell'attenzione, e ci siamo talmente tanto piaciuti che continuiamo a stare in Bocconi. Ecco, forse perché la Bocconi ha un qualche complesso di colpa, insegna un po' ad essere aziendalisti in maniera molto, molto specifica, mentre c'è bisogno di guardare l'azienda nella sua prospettiva appunto più ampia, nella sua prospettiva sociale, quindi è utile anche ad allargare un po' l'immagine di questa università, che certamente è una grandissima e validissima immagine anche esterna, ma ha bisogno di responsabilità sociale anche per vivere l'impresa nella maniera più giusta? Ma direi che negli ultimi anni la Bocconi ha fatto appunto dei grandi cambiamenti, al di là di alcuni master specifici proprio sul tema della CSR. Trasversalmente c'è un approccio diverso ai temi economici, di management e di marketing. Mi sembra che in particolare dallo scorso anno con il rettore Andrea Sironi si sia voluto sottolineare il ruolo sociale anche dell'università, cercando di inserire questi temi all'interno un po' di tutti i corsi, per cui non lasciandoli ad un master o Certo, una laurea specialistica. specializzata. Ecco, qualcosa che attraversa un po' trasversalmente tutte le varie discipline, le varie attività, i vari approcci aziendali. Abbiamo parlato anche nella prima parte appunto della crisi economica che stiamo ancora vivendo, della necessità che le imprese affrontino questa crisi non solo cercando di superarla al loro interno, ma guardando anche all'esterno, e questo può aiutare anche le stesse imprese ad essere più compatibili, più sostenibili, più razionali nel guardare la realtà. Questa responsabilità sociale può essere qualcosa di utile come prospettiva. La prospettiva di essere socialmente responsabili sicuramente è utile all'impresa. Rispetto all'America, qui in Italia abbiamo avuto un percorso un po' diverso. Certamente uno dei primi motivi che hanno spinto le imprese a impegnarsi diciamo in percorsi di CSR è stato l'attenzione di molti stakeholder. Il vero passaggio della responsabilità sociale in Italia è stato quando le imprese hanno capito che gli stakeholder, quindi i vari portatori di interesse, non dovevano essere solo ascoltati, ma dovevano essere maggiormente coinvolti, perché questo conviene a tutti, anche all'impresa. Quindi un atteggiamento non come chiamo io buonista, che l'impresa è buona, allora ascolta i vari stakeholder, ma l'impresa in una società complessa come la nostra, ascoltando e coinvolgendo gli stakeholder, riesce a fare meglio l'impresa. Ecco, facciamo pure qualche nome tra quelli che partecipano o sono tra i promotori, perché non c'è solo Coinetica, non c'è solo la Bocconi ad essere promotrici di questo salone. Chi c'è tra i promotori, chi c'è tra i maggiori partecipanti? Ovviamente l'elenco sarebbe troppo lungo, ma le cose principali. Fortunatamente l'elenco è lungo. No, il gruppo promotore è fatto dal CSR Manager Network, che è un network di persone che lavorano su questi temi nelle organizzazioni, da Unioncamere, dall'Alleanza delle Cooperative Italiane e da Sodalitas. Quindi ci fa piacere che ci siano un po' le varie componenti sia dell'impresa, e quindi Unioncamere è un po' la casa di tutte le imprese, sia dell'impresa sociale, quindi Alleanza delle Cooperative, ma anche Sodalitas che da tanti anni porta avanti questi discorsi non solo a Milano ma in tutta Che è un po' Italia. un braccio operativo di Assolombarda, quindi delle unioni degli industriali verso appunto gli interventi nella socialità, nell'ambito sociale. Tra le aziende ce ne sono tantissime, alcune che seguono il salone e sono protagoniste da tanti anni e altre che invece per la prima volta vengono quest'anno, da Auchan a Coop, Leroy Merlin, per arrivare poi a Rio Mare che viene per la prima volta quest'anno al salone, a aziende che si occupano di infrastrutture, da Terna a Snam, a tante altre aziende e anche un discreto numero di organizzazioni no profit. Ne cito due. Tra le tante che sono Amnesty e AIFO. Naturalmente c'è anche qualche pubblica amministrazione, anche se in un momento di spending review, la pubblica amministrazione, anche solo per far venire un relatore e Certo. spostarsi magari a qualche problema. Ecco, ma in questa prospettiva si può guardare al sistema economico con una maggiore unità, in fondo non c'è tanto divisione profit, non profit, aziende che lavorano strettamente per i consumi, aziende che lavorano invece con un'ottica più sociale. Possiamo guardare a una maggiore unità di questo settore economico e quindi anche una maggiore partecipazione delle persone che sono nello stesso tempo consumatori, produttori, impiegati, operai, quindi che si sentono forse di dover essere più responsabili, più attenti anche nelle loro forme di consumo. Sì, una delle poche cose buone che la crisi ha portato, secondo me, è proprio questa, cioè la consapevolezza che bisogna partecipare in modo più attivo e quindi che bisogna trovare collaborazione, bisogna trovare scambio e questo è anche un motivo per cui il Salone quest'anno è dedicato ai processi collaborativi, perché se non si collabora, a mio parere, non si va da nessuna parte. E nella situazione nella quale siamo, per esempio, la collaborazione tra profit e no profit è molto cambiata, non è più l'azienda ricca che dona, regala con una sorta di mecenatismo soldi alla no profit, è coprogettare e fare delle cose insieme per ottenere risultati più interessanti, ancora una volta win-win. Ecco, in questa prospettiva c'è anche una formula che viene chiamata l'economia della condivisione che si sta allargando, una condivisione che è fatta magari anche semplicemente dal noleggio di un'automobile, che però anche grazie alle tecnologie sta crescendo l'opportunità appunto di mettere a disposizione di altri cose proprie, quindi non solo la proprietà come elemento di consumo, ma anche come possibilità di condivisione. Anche in questa prospettiva c'è un'attenzione vostra? Sì, la sharing economy, come si Come dicono gli chiama, esperti, ecco, come infatti. dicono gli esperti, è veramente in grande crescita. Quindi, al di là delle cose che oramai sono già entrate un po' nell'uso comune, tipo il carpooling, il car sharing, bike sharing, eccetera, ci sono fenomeni che stanno veramente andando avanti con passi da gigante. Adesso le social street sono un esempio, no? Gli orti urbani, piuttosto che il crowdfunding, il crowdsourcing, tutto ciò che nasce dalle persone per le persone. Abbiamo fatto fare una ricerca che ha tentato di misurare questo cambiamento nei comportamenti degli stili di vita e di consumo, che invece di farlo dal punto di vista teorico, no? Quanto sei disponibile a condividere, sappiamo che in questo caso le risposte un po' buoniste escono e sono sempre un po' stereotipate, invece è andata a indagare. Cosa faresti di fronte alla possibilità di partecipare a un GAS, a un gruppo di acquisto solidale? Cosa faresti il pensiero di mettere in condivisione la tua casa per lo scambio delle vacanze? Quindi comportamenti molto concreti. Ne sono stati analizzati 11 e il trend sicuramente dimostrano che una fascia molto più ampia di quella che noi riteniamo sono già protagonisti dell'innovazione e del cambiamento. Quindi le aziende, il nostro suggerimento è le aziende stiano attente perché è un fenomeno questo in forte crescita e quindi devono pensare ai loro processi, ai loro prodotti, ai loro servizi anche in funzione di questa nuova esigenza del cittadino consumatore. Certo, che magari spendendo lo stesso può avere più servizio, spendendo di meno può avere gli stessi servizi di prima, rinunciando un po' al principio della proprietà, per esempio dell'automobile, per andare verso un principio appunto di condivisione. Ma se le cose poi funzionano, tanto meglio. In questa prospettiva c'è anche un migliore sfruttamento delle risorse, quindi una maggiore compatibilità anche ambientale, un minor traffico nelle città, una minore occupazione di spazi urbani da parte delle auto. Si possono raggiungere tanti obiettivi appunto trovando nuove formule. Sì, sicuramente i giovani sono già molto propensi, sono tendenzialmente innovatori. Al Salone cercheremo proprio anche di far sentire la loro voce, cioè quello che ci teniamo molto è che anche siano loro anche un po' i protagonisti. Avremo una serie di associazioni anche di studenti che ci aiuteranno e faranno da coordinatori nei vari eventi, soprattutto parlando di sharing. Ecco, Rossella Sobrero, presidente di Coinetica, ci avviamo verso la conclusione, guardiamo in avanti. Dopo il Salone, quali altre iniziative hai in mente? Che cosa, si programma di fare per il suo futuro? Beh, nell'immediato, il 27 di ottobre, alla Fondazione Cariplo organizziamo la 10ª Conferenza Internazionale della Comunicazione Sociale, che è un appuntamento oramai fisso per Pubblicità Progresso e che quindi anche quest'anno ci vedrà impegnati. E poi, chi lo sa, faremo un salone itinerante che girerà tutta Italia. Tutta Italia, magari tutta Europa. Beh, questo forse è un'ambizione un po' Beh, ma troppo non bisogna grande. porre limiti appunto alle ambizioni. Ma, e guardando un po', facendo un po' un bilancio di questa attività, comunque è cresciuta anche la sensibilità verso il tema della responsabilità sociale in Italia, i temi appunto dell'etica, perché poi in fondo si parla di etica, si parla di valori, non solo di interessi. Sicuramente è cresciuta, abbiamo bisogno che cresca ancora di più. Ma in questo senso avvenimenti come il Salone può essere un elemento di riflessione, ma poi bisogna portarla nella realtà concreta. Come scendere dall'esibizione, che possiamo chiamarla poi in fondo così, quella di un Salone, al fatto poi di condividere sempre di più questa realtà, magari anche in trasmissioni come questa? Sicuramente bisogna continuare a parlarne, bisogna fare in modo che le imprese la pratichino, perché come diciamo sempre noi, va bene dire, ma prima bisogna aver fatto. Ecco, quindi anche questa è una testimonianza concreta di responsabilità sociale, forse non ci si arricchisce, ma comunque si può vivere facendo appunto una testimonianza operosa di cose positive. Forse abbiamo bisogno anche di recuperare una fiducia nel guardare la realtà, una fiducia nel guardare al fatto che non siamo uomini lupus, ma siamo uomini che possono collaborare e, come dicevamo prima, essere win-win. Sì, la parola fiducia che lei ha usato mi sembra la parola chiave proprio anche per la vita di tutti i giorni. Beh, ce la sentiamo ripetere, abbiamo bisogno di fiducia, abbiamo bisogno di fiducia per rimettere in moto l'economia, abbiamo bisogno di fiducia per dare una prospettiva alle nostre persone, anche per, in fondo, in questa società che è un po' stanca, che è anche un po' vecchia, bisogna dare un po' delle forze, magari non in realtà, non anagraficamente giovani, ma in realtà che abbiano uno spirito giovanile. Sono d'accordo al 100%. Grazie mille, grazie a Rossella Sobrero, presidente di Coinetica, per essere stata con noi questa sera. Abbiamo parlato di responsabilità sociale dell'impresa, abbiamo parlato del Salone della responsabilità sociale che si svolgerà nei prossimi giorni alla Bocconi di Milano. E augurando appunto che questa realtà possa essere anche frutto appunto di riflessioni da parte di ciascuno di noi. Io saluto quanti ci hanno ascoltato, ringrazio Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.